Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori da Trento, dove si sta svolgendo il Festival dell'Economia, e buonasera a Salvatore Rossi. Buonasera. Grazie a Salvatore Rossi di essere con noi. Salvatore Rossi è direttore generale da pochi giorni della Banca d'Italia, anzi complimenti per la nomina, e prima di diventare direttore generale, per cui peraltro era vice direttore generale, mi sembrano prima, ecco, però ha scritto questo libro, Processo alla Finanza, edito dalla Terza. Processo alla Finanza è un vero e proprio pamphlet, diciamo, che usa questo genere letterario del processo per spiegare che cos'è la finanza. Allora c'è un atto di accusa, una difesa, non c'è però una sentenza finale che Salvatore Rossi lascia ai lettori di questo libro. Ecco, ricorda Salvatore Rossi che la formula del processo era nata proprio al Festival dell'Economia di Trento qualche anno fa, era stata messa in scena un po' questa formula del processo con l'accusa e la difesa. Questo libro vuole un po' espandere i temi e entrare nel profondo della realtà della finanza, una finanza che però è messa sotto accusa un po' dalla pubblica opinione. Allora diciamo subito, perché la finanza è messa sotto accusa? Per tante ragioni che affondano nel passato anche remoto. La gente ce l'ha con le banche da sempre, da secoli, da millenni. Ci sono religioni che vietano il prestito a interesse, che è il fondamento dell'attività di una banca. Lei ricordava che qui a Trento, in occasione di una passata edizione del Festival, credo nel 2009, si mise in scena un vero e proprio processo alla finanza. Si era all'indomani dell'esplosione della grande crisi finanziaria globale, e quindi c'era stata anche una esplosione di irritazione nei confronti della finanza, di una finanza vista come una mostruosità che avvelenava le vite degli esseri umani un po' per tutto il pianeta, perché c'era un incendio che divampava, che coinvolgeva tanti paesi, tante economie, non soltanto i paesi angloamericani, quindi gli Stati Uniti d'America, certo, e l'Inghilterra, in cui il grosso dei problemi erano effettivamente nati, ma anche altri paesi. Più tardi, ripensando a quella esperienza, io c'ero da spettatore a quel processo fatto qui a Trento nel 2009, che era in parte scherzoso, certo, naturalmente. Ripensandoci, mi è venuto in mente di riprovarci questa volta in modo un po' più meditato e facendo tesoro delle esperienze, delle riflessioni fatte nel frattempo. E quindi di tornare a elencare le ragioni pro e contro la finanza nel modo più neutro possibile. Da questo punto di vista, in realtà io nego che questo libro sia un pamphlet, dico in realtà questo non è un pamphlet, è esattamente il suo contrario, perché non è un libro a tesi, tesi sostenuta con forza e anche con aggressività, come è tipico dei pamphlet, certo, ma è un libro che invece si sforza di presentare gli argomenti pro e contro nel modo più comprensibile possibile. Ecco, ma secondo me, se mi permette, una tesi c'è, è che non si possono dividere le cose nettamente tra il bene e il male, non si può essere manichei, tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Allora, la finanza è uno strumento necessario, lei parla di strumentum di diaboli, ricordando un antico motto medievale, che è uno strumento che può commettere molte malefatte fatte dagli uomini della finanza, però in sé per sé resta uno strumento e quindi può essere cattivo o positivo a seconda di come lo si utilizza. Questa è in fondo, se vi consente, la tesi del libro. Questa è una delle due tesi del libro, perché ce ne sono due. Questa è una e, se vuole, è una tesi di buon senso. In tutte le cose della vita è difficilissimo, direi impossibile, che tutto il male stia da una parte e tutto il bene dall'altra. C'è una seconda tesi però che viene affacciata un po' timidamente nel finale di questo libro, perché il libro, come lei ricordava, è costruito come un vero e proprio processo, quindi c'è una identificazione dell'imputato, ci torniamo fra un momento se vuole, Poi c'è una esposizione dei capi d'accusa, ci sono 5 capi d'accusa che vengono mossi normalmente anche dalla gente comune, non soltanto dagli addetti ai lavori, nei confronti di tutto ciò che fa finanza, quindi le banche, gli intermediari, i mercati, eccetera. Poi dopo l'esposizione dei capi d'accusa, per ogni capo d'accusa c'è un intervento dell'accusa, un intervento della difesa, delle considerazioni oggettive, neutrali, che si pretendono neutrali, poi c'è una arringa finale dell'una parte, dell'altra, poi c'è come se fosse il giudice togato che dà delle istruzioni alla giuria popolare. La giuria popolare saranno i lettori di questo libro, che saranno liberi di formarsi il verdetto come riterranno. Nel dare indicazioni e istruzioni ai giudici popolari su come formarsi questo verdetto, un po' di una tesi emerge, e la tesi è questa, quindi venendo dritti alle conclusioni. La tesi è che alla fine dei conti tutto il dibattito sulla finanza si riduce a un dibattito fra chi propugna la necessità e la stringenza di regole pubbliche, quindi di un intervento pubblico che disciplini, che regolamenti il mondo finanziario, e chi invece si fa paladino del libero gioco delle forze di mercato. Quindi la vecchia, antichissima diatriba fra liberisti o liberali, certo. Poi su questo potremmo aprire una disquisizione lessicale. Ecco, però anche in questo, dottor Rossi, resta il fatto che non sono vere tutte e due le posizioni, ci vogliono le regole, certo. Regole che aiutino il mercato a funzionare meglio, e quindi delle regole che aiutano la finanza a rispettare un po' lo strumento che usa, e nelle pagine finali lei proprio sottolinea lo strumento della finanza non è il denaro, ma è la fiducia, la componente essenziale che va salvaguardata, esatto. dagli eccessi da una parte e dalle inefficienze dall'altra è in fondo la fiducia. Esatto, e quella è la ragione fondamentale per la quale, appunto, le stavo dicendo, alla fine si dice al giudice popolare: guarda che però forse nella dialettica fra regole e libertà, forse nel caso specifico della finanza bisogna stare un po' più dalla parte delle regole. Perché? Perché la finanza maneggia un ingrediente che è la fiducia della collettività, che è un ingrediente delicatissimo, per tutelare il quale è necessario un po' più di regole di quante non ce ne vogliano per disciplinare un qualunque mercato delle calzature o delle magliette. Ecco, mi consenta, in questa fase, oggi all'inizio di giugno del 2013, c'è bisogno di maggiori regole per la finanza. Non siamo ancora un sistema regolato che possa evitare le crisi di cui abbiamo parlato. Guardi, la finanza è per sua natura instabile. È un sistema, è un apparato tecnologico, lo definisco a un certo punto, è una tecnologia la finanza, molto sofisticata, che nelle forme attuali è stata creata negli ultimi 100 anni, forse 50 anni, di straordinaria utilità. Il mondo moderno non può fare a meno della tecnologia finanziaria, però ha questa particolarità di produrre instabilità ciclicamente. Questa è la ragione connessa con la questione fiducia, che certo. È l'ingrediente fondamentale di questo mondo. Questa è la ragione per cui sono necessarie regole. Ora, negli ultimi 30 anni, nel mondo angloamericano, di nuovo io torno su questo perché è lì che sono nati i problemi, d'altro canto quella è, per quel che concerne l'economia e la finanza, quella è la parte egemone del mondo, lo è stata nei passati 30 anni, negli Stati Uniti d'America in particolare, per ragioni in parte politiche, in parte ideologiche, in parte di ripensamento teorico, è prevalsa una scuola di pensiero secondo cui le regole andassero abbattute e i regolatori andassero disboscati. Beh, quando non ci sono regole non servono dei regolatori. Esatto. E questo ce ne siamo ormai tutti convinti, ma anche vasti settori di opinione pubblica americana se ne sono convinti. Questo è stato un grave errore. Bisogna tornare indietro su questo. Il problema è che la finanza è ormai una tecnologia globalizzata, quindi è una rete che avvolge tutto il mondo. I regolatori e le regole sono ancora nazionali. Questo è un punto che l'attuale ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, quando era in Banca d'Italia, sostenne mio predecessore nella carica di direttore generale della Banca d'Italia, sostenne con grande lungimiranza 10 anni fa, quindi moltissimo tempo prima della esplosione della crisi finanziaria. Il suo libro si intitolava Tigri globali e domatori nazionali. E siamo ancora lì, nonostante gli sforzi anche importanti che sono stati fatti in questi ultimi 2 o 3 anni per cercare di trovare una globalizzazione della regola che disciplina il mondo finanziario, questa cosa ancora non si è riuscita. E da dove potrebbe partire? Da una maggiore solidarietà europea, da un intervento di qualche superpotenza magari finanziaria come gli Stati Uniti, che potrebbero imporre le loro regole al resto del mondo? L'Europa ha fatto più passi avanti di altre aree del mondo in questo, avendo una storia di comunità, nonostante i problemi che l'Europa ha vissuto e sta ancora vivendo, però l'Europa ha fatto molti più passi avanti nella direzione di una comunitarizzazione delle regole di quanti non ne abbia fatti l'America. Esiste un ente, un organismo internazionale che si chiama Financial Stability Board, che è stato incaricato dal gruppo dei 20, quindi dalla istanza politica sovranazionale più importante che abbraccia sia i paesi avanzati sia quelli emergenti, cosiddetti emergenti, che si è fatto carico di propugnare. Questo processo, che non è un processo quello del libro, ma è una dinamica verso la realizzazione di nuove regole, un molto piano, troppo piano troppo forse piano. E quindi per evitare che si possano riproporre quei problemi che la finanza ha portato negli ultimi anni. Ma la ringrazio, grazie a Salvatore. Grazie a problemi, appunto, dicevamo, che la finanza ha creato e che in questo libro, Processo alla finanza, lo ricordo, di Salvatore Rossi, sono spiegati molto bene, perché è un libro, direi, soprattutto divulgativo, perché spiega, vedendo le cose dai diversi fronti, da quello della difesa, da quello dell'accusa, portando appunto in questa dinamica, spiega anche le cose complesse della finanza, che peraltro restano complesse come i derivati, ma che comunque sono importanti da capire almeno nella loro filosofia. Grazie a Salvatore Rossi di essere stato con noi questa sera al Festival di Trento. Questo suo libro è stato presentato poco fa proprio al Festival, lo ricordo, Salvatore Rossi, Processo alla finanza, editori La Terza, sono 12 euro per 114 pagine. Ringrazio anche Valentina Magri in redazione, Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.